Siamo in una condizione penosa, proprio fra Daniela, no, dove c'è quello delle carni di fronte, che c'è la rotatoria, che si può andare anche ai punti. Ma cosa cavolo ti costa togliere quelle transenne e riparare quel buco? E che cavolo, non ci vorrà l'intervento mica dall'estero di qualche esperto? Lo ripari e tutto, poi l'ho visto anche da te, no? Per andare da te, da dove ci dedico, faccio normalmente da lì. Stanno assoltando, ho guardato sul lato quando ti lasciano passare, c'è un tombino che è finito almeno 30-40 centimetri di se uno ci mette la ruota lì, esce in mezzo a un treno. Cioè, ma quando mai stai facendo la strada, l'hai fatta, cosa vuoi di te, tra virgolette, e ti dimentichi di un tombino del genere che se ci passi ti sfasci quanto c'è. Sono cose veramente, guarda, incomprensibili. Proprio lì dove ci c'è il troccare, non so se hai notato, c'è un palo in resina, un palo enorme in resina che l'ha fatto crollare proprio, capito? Il vento, il coso, l'ha spezzato dalla base. La resina c'è poco da fare, non è forte, quando ci sono dei venti forti riesce a romperla. Proprio l'indefragazione è andata, se praticamente spezzato dalla base, è un palo enorme. Sì, lo conosco, ma secondo me quello è qualcuno che ha alzato il gomito e ci è andato contro, perché ne ho visto anche altri con pezzi di macchina e quelle cose lì, perché di questa gente ce n'è spesso, così come ho visto anche quelli metallici, ma tanti. C'è gente che ce l'ha contro i pali. Sono duretti i pali. I pali sono duri, ma a sorte. Se ti sbatti al palo, ti fai danno. Oia. Alla sala c'è lo giuccino. Infatti, cioè, guarda, c'è gente pericolosa. Corre e poi fai pasticci veramente, ma vabbè, contenti loro, cosa vuoi che ti dica. E allora l'antenna non sta comportando, tranquilla? Sì, no, adesso sì, Gianfra, sì, fino adesso l'abbiamo riparata bene, dai, praticamente la parte debole l'abbiamo entrata dentro, il taglio non era tanto grande, era solo al principio. E l'abbiamo entrato tutto dentro, gli abbiamo messo tre ma come si chiama? Tre fascette in acciaio, una dietro l'altra, che tengono stretto tutto, capito? Quelle sono una cavolata da riparare. La vetturesina o con altri sistemi, mettendoci un tubo, si possono sempre recuperare. La differenza purtroppo è l'alluminio, e se si spezza sono guai, perché rompi proprio la conduttività. E così. Io volevo chiedere a Marco, cavolo, se era arrivato il giocattolo ed è scappato via. Se l'ha riparato, cosa gli si è rotto? No, se l'era arrivato il giocattolo che ha acquistato. Non sono al corrente, non lo sapevo che avesse acquistato qualcosa di nuovo, a me non mi dice nulla Marco. Marco, bobo, sta pranzando. sì, probabile. Anzi, sarebbe quasi in anticipo. Io. Cata, oltre a spacciare i muretti, spacciano anche le persone in questo clima. Stavo al freddo, sai, uscire dal caldo al freddo, in campagna ci vuole un attimo. Ma sono presa questa cosa, ce l'ho già almeno una settimana e mezzo. Ho iniziato piano piano a rompere le palle, fino a dire, sono praticamente, guarda, 4 giorni che non dormo. Faccio orari strani, poi vedo che ho raggiunto le 4 del mattino, e allora e allora è fatta, perché quando ti corichi la gola poi la risente, no? E quindi è peggio che mai, ma veramente quest'anno, guarda, tu da prendere a cannonate il 2020, un anno proprio feo, feo che non dubbio. Vedo quegli spray per la gola, non l'hai messo? Poi, guarda, l'ho detto al mio medico personale e se ne è messo a ridere. Ha detto, se prendi quella roba, guarda, ho provato sia quell'occhi, l'occhi spray, poi ho provato anche il tanto spray, che sono dei blandi antinfiammatori, antistetici qualcosa, ma guarda, fanno ridere, fanno ridere. Tra l'altro ho notato che siccome io li prendevo, li ho sempre presi, soprattutto il tampon, ho notato che i soliti furboni hanno fatto queste ampollette piccole, queste si stanno sempre rimpicciolendo. Se continuo di questo passo, vai, lo compri e ti hanno solo la scatola con il bugiardino senza il prodotto. Allora, una cosa piccola, proprio formato mignon. Il prezzo invece è salito, costava quasi 10 euro. Stanno riducendo ai minimi termini proprio. Sì, guarda, sono quelle cose. Non so se l'hai seguita, se ti è capitato di vedere quell'infame, proprio perché quello è un infame negli Stati Uniti, che è un broker, quello che il broker sarebbe quello che dà assistenza per gli affari, no? Che combina gli affari. Questo disgraziato è entrato in un'azienda farmaceutica che aveva i prodotti per la cosa, come si chiama, per l'epilessia, che hanno visto che funzionava anche per patologie tumorali. Beh, lo sai cosa ha fatto? Se l'ha subito fatto aumentare del 5000%, cioè praticamente ha fatto morire tanta gente perché non se lo poteva permettere, e l'hanno portato a fare una lezione davanti a una commissione americana. Si è messo a dire non rispondo, ma no, non normale, con la testa abbassata, ridendo proprio, capito? Ma si rende conto che lì ha buttato la respirazione a tantissime persone, e quello ridendo ha detto dalla Siria non me ne frega niente. E dicono che la persona più odiata che data degli Stati Uniti, questo qua, del 5000%. Mi appello al quinto emendamento. Esatto, l'hai visto tu quella faccia, che poi c'ha proprio la faccia di un bastardo. Deve avere 25-30 anni questo. Sì, certi non hanno vergogna, lo devo vedere, buonasera di nuovo a tutti. Certi non hanno vergogna, poi sì, quando si sentono difesi da avvocati e coso, alzano molto la testa, capito? Ok, io adesso inizio a pappare qualcosa, quindi rimango in ascolto, ok? Ah, Gianfrey, è arrivato quel ricevitorino, sembra funzionare correttamente, è piccolo, che devo dire, l'ho provato con l'antenna 5 ottavi e riceveva discretamente. Ho fatto anche un video dimostrativo che ho mandato a una persona che voleva prendersi una cosa economica tipo quella. Poi tutte le altre funzioni le devo provare perché la batteria era da caricare e quindi l'ho messo in carica, non so quanto ci metterà. Ok, vi saluto, rimango in QRX, vai Gianni. Stai comprando ancora un ricevitore, ma che cos'è un ricevitore, di quelli nuovi oppure di quelli che non ricevono tutto? HF, mi interessava solo un ricevitore HF per le decametriche, per i radioamatori, quindi con la SSB. La 030 fa. Sì, quasi, più l'FM, la banda aerea, che è inutile, ed è tascabile, è più piccolo del Texun 6E60, è tipo radiolina multibanda, no? Quelle piatte, no? Per però caspita, attaccato alla 5 ottavi ricevevo discretamente. Se vuoi ti mando il video, quindi ti fai un'idea, e costa una miseria. Allora, prezzo ufficiale sarebbe 79,90, mentre il Texuno paghi spedito quasi 140 ormai, e con lo sconto c'era un'offerta temporanea, quindi 63,90, 64 dai, 6,4. Ciao, che marca è Marco? Allora, è come quello che ha Roberto, ma è con l'SSB. È una marca cinese, Radio Wow, però rimarcato XH Data. Ti mando il link comunque, tutto, il video, il link, tutto qua. Vai Gianfranco, bianco per me. Manda che lo vediamo, ci facciamo il regalo per Natale. E io me lo sono già fatto, quello lì. Volevo spendere il meno possibile. E devo provarlo solo con un'antenna risonante, con l'antenna Proxel multibanda per le decametriche. In macchina mi prendo una zona elevata tipo Scala di Ciocca o anche San Francesco, va bene. Quindi antenna risonante, veramente risonante, e rende molto meglio sicuramente. Vai Gianfranco. Sì, più che altro ti devi scegliere una zona in cui non ci siano cavi elettrici, è una zona pulita sotto quel punto di vista, perché purtroppo, dato le dimensioni, anche risentono molto dei campi lì fatti da tralicci, quelle cose lì. E un'ultima cosa, se poi quando te lo studi un po', se scopri che c'è una presa di registrazione per l'uscita audio, o per cuffia anche al limite, se vuoi ti faccio scaricare un programma per demodulare le stazioni in HF in digitale, e anche le altre tipo meteo, bollettini dal mare eccetera, che magari ti può divertire, fino a parte riesci a coprire, sono tutti questi rumori che si sentono, ma che in realtà sono dei veri e propri file di testo che vengono mandati ogni volta, una sorta di trasferimento moderna. Ti prendi Gianni? Un attimo, già fai, sono al telefono. Ok, quindi Marco, controllando da tutte le parti, se c'è anche quella presa, ma penso di sì, dovrebbe essere completo. No, quel modello no, Gianfra, all'uscita cuffie, però non l'audio costante tipico per registrare o per prelevare il segnale. Ho visto in rete delle modifiche per prendere il segnale dall'AIF, no, in modo che sia puro il segnale, tipo il famoso discriminator per gli scanner VU, una cosa del genere, c'è una modifichetta, però bisogna, sai, aprirlo già per dire la garanzia, saldargli qualcosa, ok. A dopo dai, che sennò qua non riesco. A dopo. Ok, qua basta solo comunque l'uscita delle cuffie, non c'è bisogno di aprire niente. Ah, meglio ancora, però lì vabbè, sarà meno puro il segnale, diciamo, dai. Ho visto qualcosa, ho visto qualche video, forse è fatto proprio con quello, e se non era quello era tipo Texun, Degen, e decodificavano quei segnali che si sentono in HF, adesso non so che modo sia di emissione, vabbè, se è di TTY, non li distingo, io non ho confidenza con i modi digitali, dai, vai. Marco. PSK volevo dire, Gianfranco, dimmi già. Sto usando quel microfono che è quella static. Ma se mi manca leggere l'udito, non ho fatto un tasto che è proprio paranoico, cavolo. Potevano fare un tasto lungo come gli altri, l'hanno fatto quadrato, ti entra dentro al dito e ti fa anche male a furia di premere, perché poi è forte la premere. Sì, è vero, deve essere che l'abbiano fatto per i muscle men americani, no? Capito? Comunque la timbrica va bene, sì, è leggermente acuta, però è buona, ottima, te l'hanno detto tutti, anzi con la tua voce rende meglio, te lo dico io, perché io mi sono ascoltato, era veramente brutta con la mia voce. Ok, dai, non riprendo, bianco per me, a dopo, poi ti mando il link. Ia, va bene, dai. questo ne mandolo io i link anche. K, riprendi Gian Frank. Beh, è già le 6:30, no? C'è su che poi c'è anche questo orario che veramente credo che dal 20 e qualcosa oltre la giornata dovrebbero risalire, no? Così è. Ma sono giornate buie, fa subito buie, sono uggiose, sempre piovendo, queste giornate veramente, guarda, ripeto, c'avevo una roba stesa l'altro giorno, sono stato 4 giorni prima di ritirarla, perché non smettevo un attimo di piovere, la zuppa, non faceva manco a metterla nello stendino perché era troppo bagnata. Sì. Quello sai che questa pioggia non è neanche potabile, non la puoi neanche usare per farti la doccia. Perché non è potabile? È inquinata? Sì, è inquinata sia di troppo di tutto. Hanno fatto uno studio all'università di non so dove, l'hanno analizzata e ce n'è da mettersi la mano in testa, soprattutto in vicinanza alle città. Acqua proprio contiene metalli pesanti, tutte quelle cose, perché ovviamente queste evaporano e poi vanno tutte in atmosfera causando quello che causa, quindi malattie molto brutte e così via. E sono riusciti, piano piano loro stanno riuscendo a fare dei casini, che a ripararli sarà un guaio veramente. Mi sa che la natura si sta ribellando e bene o male sta facendo delle catastrofi come di autodifesa per l'inquinamento che fa l'uomo. È proprio una ribellione della natura, contro la natura non c'è uomo che valga, non c'è nulla da fare, si porta via tutto. Ho visto queste macchine che andavano e facevano viaggiare come se fossero moscerini. Sì, quando sono in casa è micidiale, figurati che gli abiti erano spaventi, che la strada fosse transitabile, è passato la bocca del separato, perché a posto di operare da sopra l'acqua, no, che tu c'è passata, è passata da sotto, la sottoterra, ha scavato tutto facendo quasi una trappola, fortunatamente no. Non si è fatto niente che lo stava guidando, però è stato preparato. Ha formato il vuoto, lo fa anche nelle strade asfaltate, quello lì, forma il vuoto sotto e si svuota tutto quanto, come passi ci scende. Sono cose terribili. Stavo pensando infatti che in certe zone, vabbè che adesso lo sta facendo anche da noi, ormai non c'è bisogno di andare a Trieste, ma notoriamente Trieste, che era una città di fortissimi venti a causa della bora, che andava anche a 100 e passa a chilometri, stiamo a attende ogni volta faceva fuori, di lì veramente se non la mettevi bene, portava via tutto. Beh, la zona di Trieste, quella zona lì, la bora tira molto spesso, e anche la zona della Maddalena, io ho fatto militare marina lì, cazzo, fa certi venti che trasportano, mica io sono gubisanti, eppure mi faceva tornare indietro. Perché fa così, e quante cose, io invece a Napoli sono arrivata dalle navi militari, dopo una tempesta che c'era stata il giorno prima, ma era spacciato tutto quanto, era crollata anche la stazione radio, mi hanno detto, guarda, diciamo mare porta 10. Te credo, e quelle navi sono anche molto forti, come sono robuste, eppure non c'è robustezza che va, no, se cazzo si scoperchi a te, fa di queste cose qua, cosa vuoi metterci le antenne, Gianfra? Secondo che vento c'è, scoperchi a te tutto quanto, quando vengono quelle trombe d'aria allucinanti. E lei, io mi ricordo quando doveva andare a Roma per trasportare dei documenti, e siamo andati lì da Colfaranci, non so se l'hai conosciuta, la Garibaldi, che era quel traghetto che metteva dentro anche il treno, non so se ci siamo ancora. Beh, io andando lungo la strada di lì per l'Isola Bianca, vedo quei cartelli, ho detto quasi cioè, torniamo indietro, dove vuoi andare? No, vai, vediamo un po' cosa succede. Facciamo dei segnali, no? Tipo uragano. Arriviamo di lì e la nave era fuori ancora, non riusciva a entrare in porto. E ci hanno detto aspettare che già sarebbe entrata, cioè fare forza 10. Io ho detto, ma tanto questo qua quando entra cosa vuoi fare? Se riesce a avvaggiarsi è pure un miracolo. Beh, dopo tanti tentativi è riuscito a entrare. Ne sta scendendo la gente che era praticamente bionda. E beh, questo pazzo furioso del comandante non ci ha fatto imbarcare ed è partito. Poi Gianni, finché il capo me lo ricorderò, ho passato una notte abbracciato a un palo lì che c'era sulla DAV, perché questo affare si metteva, si inclinava la paura, ci scendeva certe botte, non ti dico. Guarda, ho visto dei camionisti, quelli sono abituati, no, anche a trovare male brutto, che erano distrutti. La mattina, siccome la nostra macchina era sul ponte, l'ho dovuta con qualcosa toglierci il sale che riusciva a blocchi. Io sentivo l'acqua che andava sopra la nave e invadeva tutto. E ci è andata bene, guarda, l'avrei preso e strozzato quel comandante. Quindi ci ha messo a fare la pole dance. Cosa pole dance, abbracciato in cabina questo palo che fortuna stava del passato in mezzo, pigliando i goi, più una sussa tutta la notte, guarda, pallido come un cadavere, ha detto maledetti, bastardi. E poi, guarda, ma il mare era bianco, totalmente bianco, con ondate da paura. A te è successo con la nave, a me è successo in aereo, che praticamente quest'aereo c'era un vento allucinante, quest'aereo doveva atterrare a Fertilia, stavamo arrivando da Roma, doveva atterrare a Fertilia e praticamente ci ha detto che eravamo quasi arrivati, che potevamo che dovevamo lasciare le cinture, potevamo accendere le luci in cortesia, che spegnevano le altre luci, se dovevamo leggere cosa c'erano le luci in cortesia, quindi noi ci stavamo aspettando da un momento all'altro di atterrare e vedevamo questo aereo che praticamente scendeva e poi risaliva e poi sentiva tum tum rumore di carrelle che non si aprivano. Oh, la gente si guardava tutta con lo sguardo terrorizzato. Beh, dopo tanto ha fatto l'atterraggio, ci ha dato un colpo, Gianfra. Di solito quando atterrano gli fanno l'applauso, no? Nessuno ha applaudito, ha dato un colpo che mi ha dato il cuore in gola. Guarda, credimi che ci ha dato un contraccolpo come ha atterrato questo qua. Oi, mi sembra solo vista proprio brutta, e noi che si ammassa tutti. Anch'io, non so se te lo ricordi, io invece ho fatto Bologna-Fertilia, quando c'erano l'Italair, non so se l'hai conosciuta, quegli aerei ATR, Aerica. Siamo partiti da Bologna e c'era con noi anche la Dinamo. Questi, sai, tipo dei comici, no? Passavamo lì a Bologna per vedere questi begli aerei, tutti grandi, lussuosi, eccetera. Poi abbiamo visto il nostro che era incastrato tra due aerei grandi. È piccolino questa cosetta lì, con due eliche. Però devo dire, dentro non c'era paragone agli aerei di adesso, c'erano i divani proprio grandi. Cioè stavi tutto comodo, di più fortunatamente. È iniziato a piovere. tempo. Questo affare è delicato, è decollato e sentivi praticamente un rumore tipo autocarro diesel, no? Quelli che fanno il trasporto, io sono però era comodo, quindi non ci siamo allarmati. Questi stavano facendo gli spiritosi, questo è il planino, stava lì in Vara, sì, parlava di continentale, per dire il vero, perché l'allenatore non era sabato, tutti alti, tutti così. Poi una volta decollato è uscito fuori dallo spazio aereo di Bologna e si è messo lì per la Sardegna. Oi, Gianni mio, non te lo dico. I finestrini, se guardavi dei finestrini, quelli volavano di nonno a 6.000 metri, vedevi quest'acqua che sembrava che volesse entrare dentro, faceva un rumore tipo di pallottole, tan tan tan tan tan tan tan, e poi è iniziato il vento, inizia questo aereo a salire e scendere, e ho visto quello che c'è davanti a me, un ragazzo che praticamente stava piangendo. Figurati a che punto eravamo, erano tutti pallidi che non ti dico, eppure cavolo, sono due giocatori in aereo, ci sono andati migliaia di volte. Beh, arriviamo sopra Alghero già, nessuno ha voluto niente ovviamente da bere, perché a quei tempi ti portavano tutto quello che volevi, per atterrare credo che abbia fatto due tentativi. Al terzo è passato da sopra l'isola Piana, no? Di lì a Capocaccia, ne è arrivata questa bordata di vento e anch'io ho detto qua finisce male, ci ha sbalzati come un fuscello, ha sentito questa roba. E invece come ho detto, perché è molto agile l'aereo, è riuscita ad atterrare la signora ha messo la scaletta per farci scendere. Mi raccomando, anche la prossima volta viaggiate con noi dell'Italia, grazie per aver viaggiato con noi. Si gira l'allenatore, ma basta, e che come la mano la ripoveraccia, non gli arraio. Sì, ma una cosa, guarda, è stata un'esperienza che ti ricordi, che ti ricordi. E comunque vedi in aereo se cadi, insomma, sono secondi e finisce tutto. Quella più spaventata era quella da una nave, veramente intanato in buco di cabina, non ti azzardavi neanche a guardare, perché c'era anche lo blu, non ti azzardavi a guardare fuori, perché fuori era acqua semplicemente, si vedeva l'acqua che sbatteva fin sopra, si vedeva dal tetto, perché arrivava fino al plancia evidentemente. E poi si gridava, scendeva, prendeva la volta e si ho detto se qua poco si rovescia qualche carrozza, qualche cosa, guai, siamo tutti morti. Allora, io non l'ho fatto in nave, ma l'ho fatto con un'imbarcazione che si chiamava Sessa, non so se la conosci, una pilottina, due motori da 80 cavalli, eccetera, eccetera, che questo amico mio aveva acquistato a seconda mano. Praticamente mi ha detto già ce ne andiamo a pescare, ce l'ho al Alghero, andiamo domani mattina, compriamo l'esca e andiamo a pescare. Io a me sa che mi piace andare a pescare, questo amico mio non è montanino, non è persona di mare. Praticamente ci ha bisogno di una matita di marini, lì praticamente, la patente nautica, non l'ha mai studiato. Fatto sta che mi porta Alghero e mi dice già la guidi tu all'uscita, non ho patente nautica, e va bene, dato vai guida tu, mentre io sistemo tutti i sassicciotti, li metto su, eccetera, eccetera. E me l'ha fatta guidare a me un pezzo, e tutti quanti i pescatori alle 6 di mattina stavano rientrando e ci facevano cenno di mano, e lui diceva che ci stavano salutando, ho detto no, mi sembra che ci stava dicendo di tornare indietro, e sono tutti rientrando, di solito non rientrano così presto. E fatto sta che fatto sta che era così, ci avevano fatto cielo di mano perché c'era mare. Come siamo usciti un po' fuori dal porto, c'era questo mare allucinante, ho detto io che ce ne ritorniamo, Andrea, che c'è mare, no, andiamo a largo non è qua perché siamo qua vicino, ma a largo non ce n'è mare. Beh, eravamo l'unica imbarcazione in tutto il mare, l'unica, non si vedeva una barca in tutto il mare, solo noi ce l'avevamo. Bene, questo qua se ne scende giù e comincia a mangiarsi il panino, a bere il vino e così lo si gutta. Oh Gianfra, io non sapevo cosa fare, e io direi che ce ne andiamo, qua il mare sta aumentando, pioggia, burrasca, e tu sempre, tranquillo, già si calma, era gutto in avvista. Gli ho detto, poi tra l'altro non era proprio amico mio, ma era il ragazzo di un'amica mia, quindi lo conoscevo ben poco, là, siamo andati così per conoscerci e via. Fatto sta che ho visto come era la situazione, ho preso, tolto l'ancora, metto in moto, mi armo di buona volontà, mai guidato una barca, cazzo Andrea, ma oh Gianfra, la barca saltava, si staccava dalle onde, saltava e scendeva di corpo, boom, boom, boom, io cercavo di prenderle di lato perché per sentito dire da altri amici, dice che le onde quando si prendono di lato, di modo che non ti facciano saltare troppo, capito? Beh, sono riuscito ad arrivare al porto c'erano tutti i pescatori che stavano guardando, stavano aspettando, sicuramente volevano segnalare alla capitaneria che eravamo in difficoltà o roba del genere. Cioè, quando siamo arrivati gli ho detto, Andrea, esci fuori perché io non so ormeggiare, vieni tu perché... E meno male lui è uscito con tutti i tipi, ha detto metti i salsiccioni, che se no ci sbattiamo alle barche. No, ormeggiata bene, tutti quanti ci hanno detto un po' di cose, ma siete pazzi voi, vi abbiamo avvisato che c'era mare, siete usciti lo stesso, ma cosa vi credete voi? Cosa volete, ammazzarvi oppure far intervenire la capitaneria quando siete voi che siete fuori di testa? Questo ce l'avete tutti quei pescatori. Noi stavamo già per segnalare alla capitaneria, guardavamo tutti col cannocchiale. Non ti dico altro, dal giorno ci sono più andato con lui. È stato bene, perché il mare deve essere rispettato. A me, guarda, noi andavamo a pescare lì, scurando i pesci, a Tramariglio, no? Dietro, quindi facevo il sentiero dalla torretta e andavo dietro. Un giorno ci siamo andati, con mio fratello, a pescare. Cavolo, c'era... eravamo in tre, credo. Siamo andati a pescare, però c'era qualcosa di strano, era una giornata troppo, sai quelle senza vento, il mare che neanche si muove proprio, però un po' buia. E quindi abbiamo detto, boh, che strano, eppure non tira alito di vento. Siamo arrivati, perché bisogna fare tutto il giro di verso la torretta, al punto di pesca. Non passavo 10 minuti che c'era questo qua, questa barchetta, no? A remi. Non ho capito cosa voleva andare, perché la gente a volte lì è mezza matta. Fatto sta che dopo un po' iniziano ad arrivare queste onde. Figurati che a noi sugli scogli ci hanno tutti bagnati, ci siamo tutti dovuti ritirare. C'era questo, urlando, aiuto, aiuto! E noi c'avevamo anche la barca di lì, quindi il mio amico dovuto andare di lì, le aveva tanto scordi, gli ha detto di cosa, prendilo, e vedi se riesci a trainarlo, perché questo si batte alle scoglie e andare in acqua con questo mare che si è messo, è impossibile. È iniziato a fare quest'acqua, tuoni, fulmini, e queste ondate, cose di colpo, tempo 10 minuti è scoppiato un inferno. Subito è riuscito fortunatamente a mettere in moto, ha staccato gli ormeggi, è partito a razzo ed è riuscito a lanciarle una sagola, la messa l'abbiamo portato lì a riva, ma guarda, la giornata già era strana, però che si mettesse così era difficile a crescere, tanto anche perché di lì è un golfo praticamente, quindi molto riparato. Guarda cose la faccia addosso. A noi ci è successo a Molocartaneo. Molocartaneo c'è la parte dove ci sono gli scogli che va verso il mare di fuori, e poi c'è la parte in terra del porto dove praticamente attracca la Tirrenia adesso. E noi andavamo lì quando ancora non attraccava la Tirrenia, ma attraccavano le gasiere, le petroliere, eccetera, eccetera. E c'erano le cabine dove stavano le guardie giurate all'inizio, poi non avevano più attraccato lì, le guardie giurate non c'erano più, e ce ne andavamo noi sotto le tettuglie che c'era. Era un muro scavato e fatto una specie di casupola per ripararti, no? Ah, se viene questo temporale, cominciano queste onde che saltavano sugli scogli e passavano oltre il muro e arrivavano sino al molo. Non sapevamo come fare per andarci, dovevamo aspettare il momento che non passava l'onda. A un certo punto io passo, quel mio amico non ha calcolato bene i tempi, cazzo, l'ha fatto cadere in terra l'onda che è arrivata, buono tutto il fuso, Infatti, di lì uno e due ci ha messo le penne, perché o pescando o facendo magari lo scemo, perché di come il mare non ne capisce niente. E poi sugli scogli fino a che poco si scivola lì, quando inizia a mettersi male, c'è quell'erbetta che guai. E più duro ci ha rimesso le penne lì. Quindi bisogna stare attenti. Io avevo seguito 2 anni fa il salvataggio di quella barca, non so se erano olandesi o inglesi, che erano tra Oghero e Bosa. E siccome c'era il fratello di mio cognato, il fratello di mio collega che lì a circolarandiero, questi sono dovuti uscire col gombone, quello bello, cioè il gombone, è una motovedetta grossa, diciamo i motori, però è quello è inaffondabile. Ma non sai quanto ci hanno messo ore per raggiungere, nonostante l'altissima velocità, perché c'era mare da paura. Ho detto, ma per mare niente vi fa. Niente, ci siamo dovuti mettere le cinture, no? Diciamo i sedili tipo aereo. Non so se ne ha visti quei gomboni. Ovviamente hanno anche la cabina. E si hanno messo le cinture con le sedie per fare lavoro, dove la ruota tanto di lì è tutto. Non c'è neanche timone, credo, su joystick. Ma guarda, io li sentivo per radio, ce l'hanno fatta veramente per un pelo. Uno lì dell'equipaggio di questo yacht, di questa barca vela, è anche ferito, l'hanno dovuto trasportare con delicatezza, ma poi è molta gente, ma fa nulla, ne ho sentito di tutte e di più. Io vicino a casa abitava questa famiglia che noi eravamo molto legati, perché mia madre aveva battezzato anche la figlia, eccetera eccetera, quindi eravamo molto in comune, e c'era il compleanno del nipotino, e praticamente il padre di questo bambino era a pesca con un amico, grandissimo nuotatore e pescatore, prendeva certi pesci che coprivano praticamente, ci aveva il 1100, allora coprivano da una parte all'altra del cofano pesci enormi tipo tonni, roba così prendeva. Beh, sono andati a Stintino a pescare, si è girato il mare, quello che non sapeva nuotare si è salvato, si è attaccato alla barca, l'altro, il padre di questo bambino, dove c'era la festa a casa sua, loro stavano tutti ballando, e mia madre ha sentito al gazzettino sardo che erano praticamente, uno era stato salvato e l'altro era introvabile, e l'altro era il padre di quel bambino che stavano festeggiando, capito? L'hanno trovato dopo 15 giorni tutto mangiato dai pesci. Così, no, io mi ricordo di un altro che era insegnante, credo. E addirittura lei è successo alla Marina di Sorso, e questo l'hanno trovato oltre l'Isola Rossa, dentro uno scoglio, sono venute settimane per trovarlo. Hanno dovuto fare il calcolo delle correnti, le probabilità. È un'attività molto molto pericolosa, anche a me. Io di norma, anzi no, ma quasi sempre andavo da solo, dopo che chi veniva con me ha iniziato a... cioè rimanevo preoccupato per gli altri. Io bene o male sapevo che la cosa più importante quando sei d'acqua è stare attenti, cioè controllare tutto, il pugnale, la tuta della muta, che non ci siano spigoli, eccetera, eccetera. Ma ti giuro che ero anch'io di lì alla barriera di Sorso, ogni 5 minuti dovevo togliere la testa, anzi no, ero sempre lì nella baia di Portocorte. Sono andato sia a Portocorte sia a Maria di Sorso con questo amico. E ogni 5 minuti ero fuori perché qualcuno si vedeva, perché poi d'acqua, lo dovreste sapere, avreste fatto pesca subacqua, non vedi le teste praticamente, se che tu sei d'acqua, quindi mi dovevo sporgere, fare fatica. Cioè è passato tutto il tempo guardando, lo vediamo, allora era questo. A posto di andare, diciamo, larghi insieme, una a destra e l'altra a sinistra, questo andava dall'altra parte e ascolto. E rimane sempre quando lo vedi, non passi anche una bella giornata. E quindi è così, fortunatamente è andata sempre bene. Io per anni l'ho fatta la pesca subacquea, Gioffre, e prendevo anche bei pesci, però poi una volta mi sono incastrato, ho sparato un sarago bello grosso, sarà stato 1,2 kg, 1,3 kg, di quelli enormi. L'ho sparato e l'ho preso sotto la pancia, ne sono uscite le bude là fuori, si è messo a ruotare, è entrato dentro questa grotta. Io sono entrato dentro e non riuscivo più a uscire, mi sono incastrato, quando sono arrivato su ho fatto... mi sono attaccato al pallone, e c'era un'imbarcazione lì vicino, e si è avvicinato e ha detto ma c'è problemi? Io ho detto sì. Mi ha fatto salire, era un amico di mio padre, l'ha detto a mio padre la storia, e mio padre mi ha detto guarda, se ti vedi tutto ti do 500.000 lire, guarda, 500.000 lire mi sono rivenduto tutto, poi da una volta non ho più pescato col fucile, me l'avevo ricomprato ma poi avevo paura a entrare, avevo paura a scendere, avevo paura a entrare, prima ero molto azzardato, entravo in grotte eccetera eccetera, ero molto azzardato, mi piaceva molto fare pesca d'aspetto, prendevo bisaraghi, ma di tutto prendevo, sì, bisaraghi, pulpi, di tutto, però è rischioso, invece con la canna da pesca te ne stai tranquillo, seduto nella sedia, si attacca, si attacca, si assina mille luci, Gioffra, vabbè che tu vedi tutto il fondale marino quando fai pesca su acqua, è bellissimo per quello, poi ti scegli il pesce che devi tirare, però è una sorpresa anche con la canna, dai, io mi rilassavo molto con la canna da pesca. Sì, a me è capitata più o meno la stessa cosa, sempre lì a Tavariglio, ero sotto l'albergo lì, sotto il capocaccia, e c'erano, ho visto il mare, che fortunatamente era tranquillo, c'era un'onda debole, diciamo, e c'era un coso lì, un grongo, o una morena che fosse, che stava litigando con un polpo, stava farrando grigliari. Tutti e due erano abbastanza belli da prendere. Per prima ho detto sparo la morena perché se quella tipo si cazzo casini, e quindi ho sparato la morena con calma e l'ho centrata. Il polpo è rimasto perplesso perché ha visto questa cosa arrivare e la morena che s'attucigliava tutta, quindi l'ho presa, io ci avevo insistito, attaccato al pallone, e non ho avuto problemi a metterla dentro, contrariamente a quello, all'età adesso è più facile perché il polpo, finché arrivate lì, ho sparato al polpo, cosa ha fatto questo? Con i tentacoli si è preso la fiocina, tutto quanto, l'asta, e se n'è andato dentro una tara. E io ho detto, ma che pezzo. Sono, quindi mi sono dovuto riemergere, prendere un po' d'aria e poi discendere. E ho guardato la situazione, l'altra era oltre la metà dentro, ho detto cavolo, mi tocca scendere di più per toglierlo fuori a questo adesso. Ci ho provato ma era duro, quindi sono salito, perché altrettanto lo sai, non può rimanere. Sono andato a risalire, poc! E sono rimasto a mezz'acqua, ho detto cavolo, come mai non riesco a salire? Mi guardo intorno e si era rotolata la sagola nei piombi. Ho detto, caspita, quindi ho detto stai calmo, non bisogna spaventarsi, quindi sono rimasto razionale, non mi sono fatto prendere dal panico, anche se l'aria era poca. Ho detto, tanto c'ho il coltello, posso fare un tentativo di slacciarla, oppure slaccio i piombi e buonanotte, quindi avrò due soluzioni. Ho provato a slacciarla e ho fatto tre giri. E finalmente si è sganciato, ma lo sai come sono salito? Come un proiettile, bang, è uscito tutto fuori dall'acqua. E diciamo è andata bene, là. Ma se ti spaventi sono guai. Gli attacchi di panico sono quelli che ti fregano, ti fanno negare tutto. E poi un'altra volta tornato a fare pesca subacquea, ho visto questo ragazzo che stava negando. Aiuto, aiuto, scendeva giù, risaliva, aiuto, aiuto, l'ho preso per il collo, lo stavo portando fuori. E già non c'è neanche mia madre, che mia madre era una grande nuotatrice, solo che aveva le artrosi, non si poteva fare il bagno, mi diceva sempre, cavolo, ho la voglia di farmi il bagno, tu pensa che almeno faceva almeno la Maddalenetta a nuoto. E fatto sta che il giorno praticamente io sono andato a prenderlo, questo mi si è attaccato al collo, mi stava a fare buttarlo giù, mia madre ha visto la situazione, ha buttato l'orologio nella sabbia, si è tuffata come una saetta, è arrivata, ha preso a Leonardo, che tra l'altro era un ragazzo che abitava a due passi da casa mia, l'ha preso, l'ha portato fuori, io avevo buttato tutta l'attrezzatura sott'acqua, tutto quanto per prenderlo. E niente, ma mi stava facendo annegare anche a me, ho detto basta, mai più. Aiuto, aiuto. Avanti, Zorzi. Buonasera, buonasera. Giusto così due passaggini perché sono sempre incasinato. Ciao Gianfra, ciao Gianni, buonasera a tutti. Vai già. Vabbè, il primo passaggio l'hai fatto, dai. Ha recuperato tua figlia, adesso devi fare devi accudire tua moglie. Ehi, hai l'aria di andare alla parrucchiera alle 7:30, io devo preparare la cena, quindi devo portare il cane. E vabbè, tocca a me, e allora facciamo così, dai, non c'è problema. Avanti Gianfra. Sì, ciao Claudio, buonasera. Ascolta qua, ma fuori com'è la situazione? Vuoi tranquilla o sta mettendo di nuovo per piovere? Ma non si vede niente, ti dico solo che ci sono 8 gradi, c'è abbastanza freddo, stelle non se ne vedono, pioggia oggi non ne ha malato, da domani piove, quindi penso che stanotte inizierà a piovere come sempre, beh. Però c'è un po' di freddo Gianfra, ma freddo cazzo, mamma mia. Di là a me che sono questa cosa da 2 settimane già, porca miseria, infatti adesso mi allontano perché devo mangiare qualcosa e mi prendo la seconda pastiglia di cortisone perché non è, se no non lo fai fuori questa cosa, porca la miseria, non ho preso bene, questi sono gli sbalzi, sono degli sbalzi termici dal caldo di casa fuori, anche se vai magari a chiudere una porta, a chiudere un coso o la finestra, a chiudere la finestra, però basta quel poco di freddo per fulminarti, porca miseria. Infatti c'era anche poca gente in Piazza Italia, insomma, traffico ce n'è parecchio, tutti al centro a fare compere, però infatti mia figlia ha lavorato alla grande oggi, no, ma avanti già. Ma come hai non bisogno di nada? E io l'altro giorno sono andato a prendere l'idea, caro, sono stato da carica, sono andato a fare il gas. Sono arrivato lì ed era esaurito pure il gas, sono stato 3 ore facendo la fila da casa sino ad arrivare a carica, poi da carica sino ad arrivare a Predaneta ci ho messo quasi 1 ora, c'era un traffico allucinante. Sì, anche io Genuta, bel traffico c'è, vabbè, normale dai, la gente sta andando al centro a fare compere. Già va bene, dai, meglio così, almeno si lavora un po', sennò è un disastro. Poi intanto alle 10 è tutto già arrivato, quindi anzi alle 9 chiudo il negozio. Alle 10 c'è il lockdown, quindi va bene. Vai Gianfra. Se non ci sono i soliti passi, che ce ne riportano di nuovo un'altra data di questa penitenza, per carità. Cosa adesso, ieri c'era quello lì, no, che sapete, quello che è sempre col crocifisso, facendo lo spiritoso, ma almeno per Natale le famiglie, gli anziani si possono dire, ma allora proprio non ha capito il tubo è questo, cioè 650 volte al giorno è come essere in guerra. Certo, quello di effettivo è levantissimo. Cata, e cosa ti fa a fare il cenone? Un profugo le ha risposto, secondo me prima di fare quello dovreste chiedere il parere di tutti quegli anziani, i padri di famiglia che ci sono lì. Se sono d'accordo, per un cenone a quello da cena a rischiare di finire male, secondo me l'opinione non dovrebbe essere sua di un politico, ma di una persona che sa qual è il rischio. Eppure, come si dice, la mamma degli imbecilli è sempre incinta. Io Gianfra, come tradizione tutti gli anni ci troviamo a casa di un amico, mettiamo tanto a testa, perdiamo chi porcetto, chi agnello, chi questo, chi l'altro, ci riuniamo sempre tutti lì, siamo una quindicina di persone e niente, siamo lì ai punti sempre. Quest'anno io non ci vado perché ci sono due, che una che lavora in sala operatoria, dottoressa in sala operatoria, e l'altro lavora come analista chimico all'ospedale. Quindi queste persone qua, anche se fanno il tampone, sono più destinate a contagi perché analizzano le cose e tutto quanto. E niente, io ho preferito, mi hanno invitato, però non ci sono, le ho detto che non ci andavo perché preferisco starmene tranquillo per quest'anno, dai, poi vediamo se si può fare, a me mi fa piacere sempre perché cantiamo a karaoke e tutto quanto, facciamo una bella festa, dai. Ma fai a pranzo, vai, come fai ad andare a cena se alle 10 devi essere a casa? No, ma andavamo praticamente la notte di Natale, facevamo il 24, ce ne eravamo lì, poi andavamo in chiesa a mezzanotte e poi continuavamo la situazione, andavamo, ritornavamo lì, cantavamo al karaoke, eccetera, c'è una villa, capito, una villa grande a 2 piani, quindi c'è anche praticamente la zona di sotto che era adibita a garage, l'ha fatta come tavernetta, ha fatto il camino, ha messo un televisore grande per cantare, eccetera, eccetera, ci sono tutti gli spazi, un tavolone enorme, il camino, tutto quanto è molto bello, suggestivo perché c'è anche il camino, capito? La cosa rossa la fa col camino e con lo spiedo elettrico, però con la legna, Ho capito, si poteva fare, ma adesso cosa ti hanno invitato ad andare dopo? Non c'è manco una vena di Natale, cosa? È alle 8 la novena di Natale, figurati. Non è più a mezzanotte. Non c'è manco quella, non c'è niente, nulla. Alle 10 dobbiamo essere tutti a casa, alle 9 chiudono i negozi, i centri commerciali sono chiusi. Quindi è proprio una cosa veramente brutta. Però è così. Se vogliamo sconfiggere questo cacchio di Covid è così. A pranzo sì, io a pranzo vado a casa mia.